chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Club 91. Club 91. Club 91. Club 91 presents. Club 91. Club 91 presenta. Billboard Music Chart. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're very welcome to Billboard Music Charts, giovedì 5 dicembre. Siamo insieme, io Fergal Kavanagh e Gino Palombo on controls. E Gino giustamente mi sta dicendo no, oggi è il 6, scusate ragazzi, la confusione della bella musica intorno a noi. Bella musica, Beach Boys, andiamo! I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up softly smile, I know she must be kind. Buone vibrazioni che noi vi trasmettiamo stasera on Billboard Music Charts. Allora, Good Vibrations viene dal 1966 e guardando qua sul mio cartello vedo che il 7 dicembre del 1964 Beach Boys cantante Brian Wilson ha avuto un problema di salute e ha dovuto lasciare il gruppo in tour. Almeno dovevo trattare di questo magari domani in This Day in Music, però intanto noi parliamo di oggi, il 6 dicembre, alle ore 22, Billboard Music Charts. Allora, i nostri numeri di telefono è 081-549-9191 al telefono e sms 335-537-9191. Allora ragazzi, volete sentire il nuovo dai Outkast? Allora alzate lo stereo perché here comes the whole world. Yeah, I'm afraid, like I'm scared. little strip, hater, pack up your mind. Look forward, not behind, then you see what you find. I called a sucker dying, cause he thought it could rhyme. Now if his mama is a call, the daughter must be a dime. I gotta meet her, don't take no shots, I don't use a reaper. Asian, I don't even play the radio neither. Only if I need to know the spokes or the weather. I'm a cool type of brother, but yep, your head I sever from the neck. See, ain't nothing changed, hit the stage. Set a date, sucker, in battle we can't engage. I'll slice you, wife you, marry you, divorce you, throw the Porsche at you. It's what I'm forced to do, with my back against the wall. It's back, y'all. No, it ain't went nowhere like heavy hair with style and gel in it. Throw a curl in it, thread that nappy shit up, throw a shell in it. Whatever floats your boat, I find your lost remote. And this is for the niggas working at the airport who got laid off. I take my shades off, if you look straight in my eyes, you still might see your disguise. Because the whole world. Get off, I rock you on broke like a lead and talk. Back, back, forth, forth. Get that cellar on course, course. Make that track a corpse, corpse. Rap, roll, utterly rock. With my mouth to the mic and my hand on my Cadillac. Outcast, this won't stop. Mind Eve insieme a Gwen Stefani, cantante di No Doubt. E Eve e Gwen Stefani sono salite in palco al Billboard Music Awards insieme ad Angie Stone per fare un bel versione del singolo attuale di Angie Stone intitola Brother, and here it is adesso al numero 82 on the Billboard 100. He is my king, he is my one, my father, my son, he understands. My man, I'm here to show you, number love for you, let a sister glow you. My brother, brother, brother, brother. He's my support system, he likes his soul sister, and I can't live without him. I love his lips, his kiss, his touch, his smile. That love is legendary, his love is necessary. I want him with me daily. And I just want the world to know about my try to prove in your coupe, she gets slapped on. It's the reality. It's mine. patient till I'm resigning. Everything I need in him, I fiend for him. Fights the heavy night, see the way I adore him. He never go nowhere without her, he gotta keep her. This is a dedication from me, Angie and Alicia to my brother, I love you brother, brother, brother, Angie Stone, che sta al numero 82 on the Billboard Hot 100 con questo bel pezzo, e sicuramente dopo il suo performance ieri sera al Billboard Music Awards a Las Vegas avrà molto molto più successo, che c'era pure Eve e Gwen Stefani sul palco con lei. Complimenti, anche Alicia Keys vedo qua è salita sul palco, un bel performance. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento di Trick and Tracks, il che vuol dire che ascolteremo un bel traduzione di un bel brano, e questa sera andiamo in Scozia, dove troviamo quattro ragazzi molto bravo, molto bravi, dall'album The Invisible Band. Questi sono i Travis, il pezzo si intitola Side, o meglio Lato. Billboard Music Chart. Io credo che c'è qualcuno a guardare sopra di te. Badano ad ogni singola cosa che tu dici, e quando morirai ti faranno scendere e ti accompagneranno. Un giorno realizzerei che... è sempre più verde dall'altro lato. I vicini hanno una macchina nuova che vuoi guidare, e quando il tempo scade vuoi rimanere vivo. Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, tutti viviamo, tutti moriamo. Non c'è sbagliato, non c'è giusto, il cerchio ha un solo lato. Cerchiamo con ogni mezzo di vivere in armonia la nostra vita, per paura di cadere fuori bordo velocemente. Ma la vita è sia in chiave maggiore che in chiave minore, basta soltanto che apri l'accordo. Ma l'erba è sempre più verde dall'altro lato, i vicini hanno una macchina nuova che vuoi guidare, e quando il tempo scade vuoi rimanere vivo. Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, tutti viviamo, tutti moriamo, non c'è sbagliato, non c'è giusto, il cerchio ha un solo lato. Club 91 Radio Club. Up and let me know what's the deal, if maybe we can tell. If you don't, I'll hit you on the cell. Holler at me later, honey, you can feel it, baby, yeah. I can tell. Rave On con Shaggy, questo si intitola Two Way e si trova al numero 95 on the Billboard Rap Hip Hop Charts, e sicuramente aumenterà la vendita in questi giorni. E poi ricordate che Shaggy featuring Rave On hanno registrato It Wasn't Me, e adesso sta facendo il piacere indietro Shaggy facendo l'ospite sul disco di Rave On. Allora ragazzi, al numero 1 in America dopo 6 settimane, incredibile, 6 settimane, è una cosa potente. It's Mary Mary J. Blige. I've heard the modest repetition of empty words without tradition. Turn original verbs into submission. I smell bliss from ignorance and sedition, but I guess I wouldn't be right if I said the blood was like a baby pipe. There ain't gonna be no revolution tonight. I had my warriors as high as a kite, lost and they lost all they fight. And I've chased it, the bitter tragedy of lives wasted, and men who glimpsed the darkness inside but never faced it. And it's a shame that most of y'all are following sheep, wallowing deep within the darkness. You're falling asleep. You won't believe the things I've seen. Wind out the depth, I'm two guys, multiply by 93 guys, evenly balancing evil equally in each eye now. Maybe I'm the most thorough worker on the job to you, or maybe I'm the one who was plotting to rob you. The fear to speak down, the women on no cash to floss, makes most of y'all hustle your ass off. From nothing to 2 mil in 5 years, I live to see it vanish in 6 months with no tears believed. All right, 28 years before the feds could lay a trace, see their plan is to erase me, just to replace me. Just a so sick, lifelong friendship so chaotic. Thug hat banging his chick but won't kiss. Drinking a spit, we copping a fix for dope bliss. I got a knife in the back to bust your brain. Put the knife in your back once in a life. I was driving like that. Like my man Troy who lost his days. Shooting dice on worldly ways and ended up in early grade. Because once in a lifetime is rough. Twice in a lifetime you combat the ghost of his fuss. Mentally cuffed, crushed by a cop thinking he tough. You bust, I'ma do the hours with us and what. Now I'm on my knees begging God please. Fires of hell, let water soul prevail. Cause I can't take no more. Who's that knocking at my door? Is that you, Pete, from Cobb's Creek, who died to sleep? We just playing for fun, now it's Keith. Like my man Mark, I beat the death rep in the carpet and left in the garbage. Now that's cold-hearted, that's Porky Saw. It's like I ain't seen kids in the six, they flip for nonsense. Poking ice picks, smoking this. The preschool fool and packing a tool. Your mom dudes, it's cool. Won't believe the things I've seen. Sound of the Spooks, The Things I See, in un bel ricordo di quest'estate, grande proprio. Allora ragazzi, un po' di notizie dai Destiny's Child, hanno vinto un sacco di award al Billboard Music Awards, ma non sono contenti solo di fare la musica. Il cantante, o la cantante devo dire, dai Destiny's Child, Boyance Knowles, ha registrato una canzone come solista per il nuovo film di Austin Powers, si intitola Hey Gold Member, e usa un campione di Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty. Comunque lei farà pure un piccolo comparso nel film con Mike Myers di Austin Powers e farà la parte di Foxy Cleopatra. Non vedo l'ora di vederla, sicuramente sarà un grande emotion. Yeah. Billboard Music Chart. Jackson, You Rock My World from the album Invincible, che sta scivolando tutte le classifiche in giro al mondo. Si trova al numero 11, number 11 on the Billboard Music Charts. Allora ragazzi, musica più attuale, artisti più attuali, parliamo di Macy Gray. C'è un po' di giallo al momento, ha cancellato all'ultimo momento tutte le sue date negli USA. Non si sa perché, comunque è successo a poche ore dal primo concerto, senza spiegazione. Allora praticamente dovevo suonare fino a Natale, però poi ha detto no, basta. Eccola, Sexual Revolution. Pittsburgh Music Chart. Christ, don't be amazed. Hey. Stories I tell you. Tell you. Met a woman in the heart of Australia. Had a big butt and big too. So I hopped in her like a kangaroo. See, I met this woman from Hawaii. Stuck it in her. She said, aye. Lips was breakfast. Was lunch. Then her busted open with Hawaiian punch. Met Colonel Sanders' wife in the state of Kentucky. She said, I brought some chicken if you just... It was a crisis. I gave her my secret blend of herbs and spices. Go for the five and two zigzags. Baby, that's all we need. Come on. We can go two dogs after dogs. Smoke that. And now the girl, we can take our turn. Singing them dirty rap songs. Stop and hit the like Cheech and Chong. And sell tapes from here to Hong Kong. So roll, roll, roll my pick out the season stems. Yeah, yeah, there he goes, he's gone, è andato, oh, Afro Man with Crazy Rap, è un po' pazzarello Afro Man, non è così controversiale, controversiale come quello che ha fatto con Because I Got High, il suo hit attuale diciamo, però questo è così nuovo che immagino che sta brillando la vostra cassa a casa, o magari se state ascoltando in treno adesso ragazzi, potete anche sorridere le persone a fianco a voi a dire, sai che tra pochissimo ascolteremo 99 Bossi, però nella seconda ora, perché siamo arrivati al momento di Now and Then. Allora ragazzi, l'abbiamo messo un po' di tempo fa e ci è arrivata una bella richiesta dicendo facci sentirla di nuovo, è così bella, però non so chi lo voleva. Eccolo comunque, here's another chance, prima Toto e poi Roger Sanchez. time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life. Voice of Roy Orbison with the production of Jeff Lynne, viene dal suo album Mystery Girl. Vi ricordo che il titolo di quello, il brano principale, Mystery Girl, è stato scritto da Bono and the Edge of U2. Ma che c'entra? Stiamo parlando di Roy Orbison, perché Roy Orbison 13 anni fa oggi, il 6 dicembre del 1988, è morto di infarto. Avevo 52 anni e stavo tornando al grande successo con sua carriera solista e anche con i Traveling Wilburys, dove vi ricordo c'era anche George Harrison. Ok, allora mi ricordo questo momento in cui è morto Roy Orbison. Io stavo all'università 13 anni fa, un tipo seduto dietro a me ha detto: hai saputo, Roy Orbison è morto? Io sono sceso dall'aula, ho messo il Walkman, ho messo la radio e stavano suonando tutta la musica, e ricordo particolarmente il potere della radio a comunicare tutto quello che dovevo sentire. Vi ricordo pure che il 12 dicembre compie 100 anni la radio, quindi auguri a noi. You're listening to the Billboard Music Charts. My name is Fergal Cavana, Gino Palombo on controls. Allora, il nostro numero di SMS 335-537-9191. Potete scriverci. E adesso voglio dedicare una canzone a qualcuno speciale. Allora, Patrizia, grazie di tutto quello che mi hai fatto oggi. Non vedo l'ora di gustare quella torta. Vi lascio nel mistero, Patrizia. Thank you very much again. Mi hai richiesto per ascoltare Dido. Here she is with Hunter, cioè cacciatore. Però non è che sono un cacciatore io, Patrizio, sono bravo. Alla grande, ci sono io e Gino a muoverci at the funky rhythm of Anastasia. Questo remix of Paid My Dues, grande, un traccia che si trova al numero 2 on the Italian sales chart. Ma complimenti Anastasia, parli tu un po' di italiano, brava. Paid My Dues. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento dell'album della settimana. Stiamo ascoltando questa settimana Vespertine, il nuovo lavoro di Bjork, e vi ho già raccontato che lei farà suo ultimo concerto a Reykjavik il 19 dicembre nella sua città natale, ma è stato proprio annunciato oggi un altro giorno lì, il 21 dicembre, e quindi se vi trovate a Reykjavik per Natale, ce la fate venerdì 21 dicembre a vedere Bjork, o se no godetevi adesso questo pezzo dal suo album Vespertine, it's called Undo. 91 sul tuo computer. Spend your cash alone, even if you were broke, my love. Jennifer Lopez, my love don't cost a thing. Infatti lei ti comprerà un sacco di cose, invece se sei innamorata di lei, o magari se lei è innamorata di te, perché con suo marito è andato a comprare un regalino per lui e anche per lei, perché no? Ha speso 250.000 sterlino ciascuno dei Bentley convertible macchine che ha comprato. Quindi ha speso mezzo milione di sterlino per una macchina per lei e suo nuovo marito. Complimenti, Jennifer Lopez. Allora, vorrei essere tuo marito, lo posso dire. Ok, stiamo per andare avanti con la Billboard Music Charts. Ascolteremo il bel sound of Jay-Z with Girls, Girls, Girls. she goes, that's Madonna, Madonna, Madonna che adesso è in classifica americani al numero 13 con sua Greatest Hits Volume 2 e infatti è entrato nella classifica al numero 7 la settimana scorsa e è scivolato già, questo è un record negativissimo per Madonna e anche questo disco qua è anche un record negativissimo, ma Madonna che fai, metti tutti questi pezzi insieme per fare un remixaggio così, appena che si entra nel ritmo della musica cambia ad un'altra traccia, infatti questo si intitola Thunderbus Mega Mix, non lo so se lo vorrei comprare, infatti lo butto, ecco via. È Natale, vota lo spot, vota lo spot, vota lo spot, lo spot più bello su Radio Club 91. Parteciperai al primo festival radiofonico d'Italia e vincerai tanti premi. Vota lo Billboard Music Chart. I'm a fucking rider, you don't wanna fuck with me. Yeah. Got scales in the trunk with me. No, okay. Not so it's an honor to fuck with me. That's right. Y'all can't deny it. I'm you a fucking deny, rider. You don't wanna bang get with me. Yo, yeah. Yo. And you know I brought my gang with me. Okay. Niggas trip, I got my thang whoa, with me. Yo, if they want it, cowards get it. They still wonder how I did it. Now y'all with it. These niggas see how I spit it. Huh, these bitches see how I kid it. Hear my Cooper block away. Bitches be yelling, let me ride like they snooping Dr. Dre. I keep spitting, them clips cocked on the Cali coals. Keep shitting, with zip blocks for that Cali drove. Keep hitting, the shit blocks for that Cali dough. Keep getting, my tip rocked by them Cali hoes. It's William Bonnie, still a mommies. Dance closely, even though they feel like limeys. I ain't trying to send police to arrest. I'm trying to put this piece of your chest and you in peace with the rest. You get released to the press. This how G's ride from the north to the south, to the east, to the west. Let's go. Y'all can't deny it. I'm a fucking rider. You don't wanna fuck with me. Yeah. Got scales in the trunk with me. Okay. Switching lanes to a buck with me. That's right. Y'all can't deny it. I'm a fucking rider. You don't wanna bang with me. Yeah. And you know about my gang DJ with me. Glute, okay. Glute, niggas trip, I got my thang. Off the realness, the name's fabulous. You heard I be in them trucks with the wheels. VIP with buckets and chill, Chris. Click, click, who the fuck wanna feel this? I still got them blocks moving in a system in my truck that can make it feel like the blocks moving on 6-4s with the wheels and the shots moving. When boys in blue with the shields and the blocks moving. You ain't denied. I'm the same OG, the Gucci frames got the same goatee. Duke in your frame, 03. Cause if you see me on your corner with a 40, it ain't gon' be named OE. I might be in Chuck T's or the Chuckers. And if you duck cheese, I'm a fucker. Duck D's, motherfucker, get them fabulous. Nigga, I ride till I die. I'm hollering 187 when I ride through the side. Y'all can't deny it, I'm a fucking rider. You don't wanna fuck with me. Yeah. Yeah. Got scales in the trunk with me. Okay. Switching lanes to a buck with me. That's right. Niggas trip, I got my thang with me. It really ain't that hard to get fucked up. It's really quite easy. Just step up. I'ma knock it so hard on his butt. Woo! Just like he been drinking, like he drunk. Fat thing stood up, just stood up. She about to be singing. Turn it up. You won't hear a thing. No, you won't. You're too busy sleeping. Don't wake up. You can't deny. The kid pull a four out a little quicker. You might end up the reason your homies will have to. Ecco, ecco, there he goes. Oh, can't deny it, non lo posso negare. From Fabulous featuring Nate Dogg, un grande hit musicale dance in America al momento. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento della nostra proposta. Allora, quella che stiamo ascoltando sulle nostre stereo. E ci tenevo molto a mettere questo pezzo stasera. Nelle settimane in cui è morto George Harrison e anche nell'anniversario della morte di Roy Orbison 13 anni fa, loro hanno collaborato insieme in un gruppo Traveling Wilburys insieme a Tom Petty, Jeff Lynne e il grande Bob Dylan. Quindi ecco The Traveling Wilburys with George Harrison on voce, Handle Me With Care. Reputations changeable, situations talk. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music. To DG featuring Dirty Dancing, The Way You Dirty Dancing. Oh yeah! E prima abbiamo avuto la visione qua in radio di Gino che stava facendo un po' di Dirty Dancing davanti ad un grande vetro che abbiamo. Eppure pochi minuti dopo è passato un aereo a molto basso quoto, una cosa molto strana, non lo so se l'avete visto voi sulla città di Napoli in questo momento. Allora, un po' di notizie per i Garbage. La settimana scorsa in concerto è salito sul palco Larry Mullen a suonare la batteria con loro, Larry Mullen dagli U2, complimenti. I'm The Sound of Garbage, Go Baby Go, Cherry Lips. Bello questo pezzo, sì. Allora i Garbage sono in tour al momento con i U2 facendo la spalla, e vi ho già spiegato prima del disco che Larry Mullen degli U2 è salito in palco con loro. Loro hanno fatto la spalla agli U2 insieme. Ecco, Gino sta dicendo non in spalla, allora giustamente hai ragione. Comunque al Miami American Airlines Arena è successo questo fatto che Larry Mullen aveva già proposto tempo fa. Comunque il batterista dei Garbage, Bruce Vig, all'EPTTA e perciò non è venuto con i Garbage on tour. L'album Beautiful è molto bello pure. Allora ragazzi, avete sentito molti riferimenti agli U2 questa sera, le devo ammettere. Sì, sono un grande fan, e magari metterei di più, va bene, domani mettiamo un pezzo degli U2, no problem. Vi ricordo i nostri numeri, così potete contattarci domani a questo punto: 335 537 9191. E vi voglio anche annunciare che ho finalmente un indirizzo dell'email, e quindi mi potete scrivere fergal@radioclub91.it. ripeto, Fergal, Firenze, Empoli, Roma, Genova, Ancona, Livorno, @radioclub91.it. e c'è anche Gino @radioclub91.it. Gino Palumbo, devo fare le spelling, Gino Palumbo @radioclub91.it. ok, aspettiamo tutte le vostre email, i vostri sms alle 335 537 9191. Però do domani, perché adesso è il momento di chiudere questo giovedì sera, andare a prepararci per il show di domani. Buon ascolto su Radio Club 91, ragazzi, e se non avete niente da fare, che vi posso proporre questa sera? Continuate ad ascoltare a noi, e torna domani mattina alle 7 fino ad aprire i nostri microfoni. Allora ragazzi, buonanotte e sogni d'oro.